sono andato a visitare una sorella in fede di una certa età per coltivare quel rapporto fraterno riservato ai figli di Dio e anche per ricordare assieme a lei la morte e la resurrezione di Cristo, mediante i simboli del pane e del vino, considerato che molte volte si trova impossibilitata a parteciparvi con la Chiesa alla quale appartiene. Quella volta a farle compagnia era una signora di nome Maria, di una certa età, non molto istruita, proveniente dal sud, una di quelle donne tutta casa e chiesa. La sorella in fede, subito, tutta orgogliosa, mi presenta a lei come un suo carissimo fratello in fede. Maria, fiera della sua fede, subito mi dice di aver partecipato alcune volte agli incontri degli evangelici ai quali si è trovata bene. Anch'io credo in Gesù, subito dichiara fiera. Davvero, rispondo, mi fa piacere. Però aggiungo, molti professano di credere in Gesù. Ma in realtà poi è così. Ma io ci credo veramente, aggiunge Maria. Come può dire questo? Su quale base? Io ci credo, perché ci ho sempre creduto. Meno, e allora, quelli che vanno all'inferno, pur dicendo di credere in Gesù, domando io. Ma loro commettono grossi peccati. Perché lei non ha mai commesso dei peccati? Io no, risponde pronta e sicura Maria. Ma non ha mai detto una bugia, o non si è mai arrabbiata. Ma questi sono piccoli peccati. Che importa, i peccati sono peccati. Una parola bugiarda è nello stesso elenco del comandamento. Di non uccidere, ribatto io con fermezza. Se è così, io chiedo perdono, dice Maria per difendersi. E chi le dice che Gesù le perdona? Ma lui è morto per i nostri peccati, rincalza Maria, fiera della sua fede. Meno è, vero, ma se anche Gesù è morto per i peccati di tutti, non tutti vanno in cielo. Ma Gesù ha perdonato i miei peccati, ripete Maria. Se Gesù ha perdonato i suoi peccati, ha senso chiedere perdono. Ma io credo che Gesù sia morto per i miei peccati, ribatte Maria. E allora rispondo io, perché chiede perdono dei suoi peccati? Se stasera lei muore, dove va? Spero di andare in cielo, risponde Maria, sempre più curiosa. Spera? Perché spera di andare in cielo? Sa perché spera di andare in cielo? Perché non crede che Gesù le abbia già perdonato i peccati. Maria rimane pensosa. Mi guarda e mi dice, nessuno mi ha mai detto queste cose. Non importa, rispondo io. L'importante, sappia, che finché chiede perdono dei suoi peccati, significa che non ha creduto veramente che Cristo li abbia già perdonati. Una vera fede ringrazia Dio di aver ricevuto il perdono dei propri peccati per mezzo di Cristo. Finita per il momento la conversazione, la sorella di fede porta del pane e del vino, quindi io inizio a leggere la parola di Dio per farne un breve commento. Posso prendere anch'io del pane e del vino? Chiede Maria. Non credo che possa, perché bisogna avere creduto veramente in Gesù. Chi non individua nel pane e nel vino il corpo e il sangue di Cristo sparso per riconciliare l'uomo a Dio e non compie questo atto per ringraziare per il perdono ottenuto, si rende colpevole nei confronti di Dio. Ma io credo veramente in Gesù, rispose Maria, ancora non convinta della sua opinione. Io vado spesso a messa e credo in Dio che perdona. Non posso certamente conoscere il suo cuore, né giudicare le sue intenzioni, ribatto io, ma credere in Gesù, come dice la parola di Dio, porta dei frutti. Io non posso sapere se la sua fede è sincera oppure no, ma posso esaminare i suoi risultati. Se lei continua a rimanere nel dubbio che Gesù l'abbia perdonata e, con questo dubbio, non è neppure sicura di andare in cielo, posso dirle che, benché sia sincera, lei non crede veramente al sacrificio di Cristo. Se io ho commesso un grave errore nei suoi confronti, le chiedo perdono e lei mi perdona, poi il giorno dopo le chiedo perdono e, così ogni volta che la vedo, cosa pensa di me? Ho forse creduto al suo perdono? Maria mi guarda pensosa. Nessuno mi ha mai parlato così, risponde. Prima di prendere il pane e il vino, assieme alla mia sorella in fede, ringraziamo Dio per il perdono ricevuto e per la gioia di vivere in questo perdono. Pregate anche per me, ci interrompe Maria, pregate per me. Dopo aver terminato il nostro culto, cioè il servizio, Maria commenta. Meno è stato molto bello. Oggi ho imparato tante cose. Vorrei avere la fede che avete voi. Pregate per me. Mi alzo per uscire e mi rivolgo ancora a Maria con questa ultima parola. Se Dio le ha parlato, non faccia finta di niente. Oggi è il giorno della salvezza. Se rimanda, può esserle fatale. Esco dalla casa con un cuore felice, perché la mia sorella in fede ed io abbiamo avuto occasione, ancora una volta, di presentare il grande, meraviglioso, insondabile messaggio del Vangelo, quel Vangelo capace di trasformare la vita religiosa dall'affanno della preghiera richiedente ad una preghiera di lode e di adorazione. Solo Dio può fare questo. Anche se qualcuno volesse farlo come atto di volontà, non potrebbe. L'umano non può imitare il divino. Una conversazione del genere potrebbe sembrare il confronto di un pignolo della religione, intento a trovare a tutti i costi qualcosa che non va, oppure di uno al quale piace stuzzicare e provocare il prossimo. Ma una chiacchierata del genere mette in evidenza il grande valore del messaggio del Vangelo. Ha messo in luce quanto poco vi sia di cristiano nelle religioni che si definiscono cristiane. Purtroppo il grande fiume religioso del cristianesimo fin dall'inizio del suo nascere è stato inquinato, ma di un inquinamento tanto subdolo che chi si abbevera di esso non ne è conscio. Un esempio eclatante lo abbiamo nella Didache, ritenuto il più antico documento catechismo del giudeo-cristianesimo, sul quale, a parere di molti studiosi, è possibile rispecchiare la fede cristiana e la nostra vita per controllarne l'autenticità. In questa catechesi morale divisa in due parti, vi è la via della vita che richiede l'adempimento della regola d'oro, consistente nel non fare agli altri ciò che non si vuole fatto a se stessi. A prima vista nulla di particolare, poiché questa regola d'oro ormai ha impregnato il tessuto religioso definito cristiano, ma se confrontiamo questa regola con quella data da Gesù ci rendiamo conto di come il principio di Dio sia stato completamente stravolto. Mentre la regola d'oro di Gesù ordina di fare al prossimo ciò che si desidera essere fatto a noi, quindi di agire positivamente per il bene del prossimo, la regola proposta nella Didache indica di non fare agli altri ciò che non si vuole fatto a se stessi, un invito dunque a essere passivi e quindi di astenersi dal male. Eppure, alcuni padri della Chiesa citarono questo documento come sacra scrittura. Ma non basta questo atteggiamento perché una falsità diventi una verità. Questo è un solo esempio, illustrante come sia facile alterare la verità iniziale col passare degli anni, e, spesso, non basta anche un attento esame a liberarci da preconcetti sbagliati assunti dalla religione ufficiale. Chi ha vissuto sotto il predominio religioso del cattolicesimo romano si rende conto di quanto sia difficile togliersi d'addosso tutta l'impalcatura religiosa romana e, se anche acquisisce giusti elementi religiosi cristiani, il più delle volte questi non scardinano quelli sbagliati ma vengono messi accanto a quelli vecchi. Di loro si potrebbero usare le parole di Gesù rivolte ai religiosi del suo tempo. Perciò ogni scriba ammaestrato per il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e vecchie. Matteo 13.52. Cosa ci è allora di profondamente sbagliato nel cristianesimo ufficiale? Nel cattolicesimo romano non si predica che Gesù è morto per tutti i peccati per dare perdono a chi pone fede in lui? Sì, questo è vero, ma di fatto, e nella dottrina le cose non stanno così. Innanzitutto, se questa fosse la realtà, nel cattolicesimo sarebbe completamente abolita tutta l'impalcatura religiosa sacramentale e sacerdotale, dato che la messa, meno tanto per citare la funzione più importante, meno non è altro che un rito, nel quale si chiede del continuo perdono dei propri peccati. Se Gesù li ha perdonati, perché chiedere perdono? Se Gesù ha già perdonati i peccati, perché il sacerdote nella confessione auricolare dice al penitente «Io ti assolvo». Ancora una domanda, se il cattolicesimo romano insegnasse veramente che Gesù ha già perdonato tutti i peccati agli uomini, i peccati passati, presenti e futuri, come mai? Gli aderenti a questa religione non hanno la certezza del perdono dei loro peccati. Come mai? Persone come Maria stanno chiedendo ancora perdono dei peccati. O le persone non capiscono nulla. Oppure in effetti il cattolicesimo romano insegna qualcosa di diverso. È difficile pensare che proprio tutti i cattolici non capiscano quello che la loro religione insegna. Perciò la risposta più ovvia è che il romanesimo insegna una cosa ma di fatto ne dice un'altra. E così è perché se la religione cattolica romana credesse che un solo atto di fede rende giusto il peccatore meno come sta scritto nella lettera agli ebrei meno dove ci è il perdono dei peccati non ci è più ragione di offrire un culto per il peccato. 9.18 Cesserebbe di celebrare funzioni religiose nelle quali si chiede perdono, nelle quali si chiede pietà. E se non ci fossero più queste funzioni religiose, che ragione avrebbe di sussistere il cattolicesimo romano? A cosa servirebbero il sacerdozio, la confessione auricolare, l'ostia e la messa? Scomparirebbe il romanesimo! Come è terminato l'ebraismo con tutte le sue molteplici forme religiose? Così il romanesimo, che è una brutta copia del giudaismo, finirà. Anzi, è già finito. Finito per coloro che hanno posto una reale fede nel totale perdono di Dio, i quali sono passati da una preghiera e un culto di richiesta del perdono dei propri peccati, alla lode e alla riconoscenza per il perdono già ottenuto e per la certezza di godere la vita eterna ora e dopo la morte. Questo glorifica Dio perché, come è scritto, per mezzo di Cristo, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Ebrei 13.15 Aprile 2011 Ellero